Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7:10 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, purtroppo ci occuperemo di corruzione. Ieri abbiamo commentato ampiamente la notizia, ma oggi faremo anche un ragionamento al di là dell'inchiesta della magistratura, come sempre facciamo in questo programma, sui meccanismi che esistono ed esistono. La cosa pazzesca è che il leader mondiale nei sistemi software per garantire sulle gare d'appalto la massima trasparenza possibile, perché nel 2015 si riesce anche a avere una se si vuole un'altissima informatizzazione dei processi. Beh, dicevo, il leader è italiano, ovviamente gli appalti li fa all'estero, li fa sia sulla spending review, ma ne ha appena concluso uno con il governo britannico per un'operazione che vale 17 miliardi di euro, sono 14 miliardi di sterline. Praticamente è il riammodernamento e la costruzione di 100 nuovi chilometri, 38 nuove gallerie della rete ferroviaria londinese. Ebbene, la garanzia che i processi, gli appalti siano corretti, trasparenti, tutto il software e le applicazioni le sviluppa un gruppo italiano. Ne parleremo con loro e parleremo di quanto sta accadendo anche con uno dei magistrati, ex magistrato ormai, e mi riferisco a Gerardo Colombo, perché è membro del Consiglio di Amministrazione della RAI, ma molti di voi lo ricorderanno, era uno dei magistrati chiave del pool di Mani Pulite. È stato anche il magistrato che, per onore della cronaca, per primo investigò sulla loggia massonica P2. Il tema perché è un tema economico, purtroppo, perché il tasso di corruzione italiano, come da più parti si ricorda, vale almeno 60 miliardi, guardate che la stima è della Corte dei Conti, è una stima un po' vecchia, però almeno 60 miliardi di euro, e è brutto dirlo, ma in questi ultimi anni non c'è stato un grande progetto infrastrutturale, la ricostruzione dell'Aquila, il Mose, anche l'Expo nella parte soprattutto iniziale, che non abbia visto, e adesso scopriamo la TAV, l'alta velocità e non solo, e anche di nuovo l'Expo, che non abbia visto la magistratura indagare e arrestare in alcuni casi le persone. E alcuni dicono è un paese irriformabile, inguaribile, io penso di no, penso che comunque la maggior parte degli italiani siano onesti, c'è però un tasso di accettazione di certe pratiche troppo alto. Detto questo, già ieri ricordavamo come non è accettabile, io non ce l'ho in generale con le funzioni che svolgono, ci mancherebbe, i capi dipartimento, dei ministeri, i dirigenti, gli alti dirigenti della pubblica amministrazione, ce l'ho con i loro stipendi, perché non si capisce perché, e vi daremo di nuovo il dato, i dirigenti della pubblica amministrazione italiana siano nettamente più pagati dei loro corrispettivi tedeschi e francesi, e non mi sembra che la pubblica amministrazione italiana sia meglio di quella francese e tedesca. Perché si scrive anche oggi sui giornali, attenzione, i ministri, ostaggio dei gran comì, dei capi dipartimento. Ho capito, sei ostaggio di quello di cui vuoi essere, anche ostaggio, ma soprattutto non esiste che in un ruolo chiave come quello della gestione delle grandi opere una persona possa stare come incalzi per sette legislature, perché è come mettere la volpe di fronte all'uva per sette legislature, prima o poi qualcosa succede, non perché tutti siamo disonesti nel nostro interno, ma perché aumenta il numero possibile di corruzione, di tentazioni, chiamiamole così. E allora troviamo uno spoil system anche per i dirigenti, i capi dipartimento, non devono perdere il lavoro, facciano un giro da altre parti oppure vadano a lavorare nel settore privato, nel senso, anche se onesti, ci possono essere degli effetti collaterali, rimuovi un dirigente o un capo dipartimento buono e molto valido, ho capito, ma se questo permette poi di snellire l'intera macchina, perché non è solo il problema della corruzione, è il problema anche dell'applicazione delle leggi, del mantenimento del loro ruolo, dell'autoreferenzialità degli alti corpi burocratici di questo Stato, ormai inamovibili, beh, almeno si potrebbe sacrificare qualcuno che ha ancora le competenze per stare in quel posto, ma a vantaggio complessivamente della pubblica amministrazione. Di questo parleremo nella seconda ora del programma soprattutto, fermo restando che alcune notizie sono già saranno parte anche delle nostre notizie in breve. Per quello che riguarda i mercati, meno 0,90% Milano, meno 0,70% Parigi, meno 1,5% Francoforte, e ancora più 0,40 Londra. Il fronte euro-dollaro vede sempre l'euro quota 1,05. Sui titoli segnalo che oggi è particolarmente negativa la Popolare Emilia-Romagna che perde il 3,90, la Pop Milano che perde il 3,20, anche Tods meno 3,80, Ubibank meno 2,80, Finmeccanica meno 2,5 come Prismian. L'unico titolo che guadagna in maniera consistente è G-Tech più 2,32 e poi Campari più 0,40%. Ci sono già dei messaggi di critiche, mi chiede un ascoltatore: ieri dovevate ricordare che i 76.000 posti di lavoro sono tutti riqualificazioni di contratti. No, guardi, ci sono due inesattezze. Non sono 76.000 sono le imprese che hanno fatto domanda nei primi 20 giorni all'INPS per accedere alla decontribuzione, cioè il fatto che i contributi vengono pagati per 3 anni dallo Stato. Quindi immaginiamo che siano molti di più i lavoratori coinvolti. Ieri il Consiglio, l'organismo dei consulenti del lavoro stimava in 240.000 le persone coinvolte. Abbiamo detto sempre ieri che l'80%, sempre stima dei consulenti sul lavoro, di questi nuovi contratti sono in realtà contratti vecchi, magari Cocopro, partite IVA, interinali, trasformati in tempi indeterminati, che è comunque meglio perché la maternità, puoi andare in banca, accendere un mutuo e, a differenza di tutti questi grandi teorici del passato, il Cocopro, la partita IVA, non solo se si ammala non ha nulla, ma anche se viene lasciato a casa non ha nulla. In questo caso comunque dopo 3 anni, se vuoi lasciare a casa il dipendente, mi sembrerebbe una follia prendere uno solo per 3 anni e per gli sgravi contributivi, devi pagare comunque 6 mesi di stipendio, che è sempre meglio di prima in cui interrompevi Cocopro e non pagavi nulla. Questa è la situazione. Parleremo anche in apertura del settore del legno arredo, perché domani si apre la fiera più importante del settore, quindi restiamo anche sull'economia reale. L'ultima cifra è quella per i vostri sms: 349-238-6666 e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Avete ragione, in calza aveva 14 indagini in corso, tutto era già stato scritto, ci fu anche un'interrogazione parlamentare dei 5 Stelle, se non ricordo male, a cui il ministro Lupi rispose, insomma l'unico ministro che levò in calza fu Di Pietro. Uno può pensare come vuole su Di Pietro, ma insomma, guarda, il ministro delle infrastrutture, ma ci sarà un motivo, perché il mitico Lunardi, quello che diceva che bisognava convivere con la mafia, Lunardi, ministro delle infrastrutture del governo Berlusconi, no? Il ponte sullo stretto, detto da un ministro che bisogna accettare l'esistenza e la convivenza con la mafia, non male, Lunardi lo confermò, ma poi anche Matteoli e tutti gli altri che sono arrivati. Lupi deve rispondere politicamente dalla cosa, non è indagato dalla magistratura, deve rispondere politicamente perché ha confermato in calza. In un paese normale già questo basterebbe per dimettersi, per non mettere in difficoltà e in imbarazzo il governo, e poi deve rispondere di un dettaglio, perché io, le intercettazioni, onestamente dico agli ascoltatori, le intercettazioni ci possono essere anche delle guasconerie, delle frasi fuori luogo, del millantato credito, delle battute, io non andrei così per quello che abbiamo letto. Certo, se tuo figlio riceve 10.000, un orologio da 10.000 euro, una domanda te la devi fare, no? Perché me li danno? Sì, parliamo anche di Duferco, dell'arresto nei nostri GR, è presente da quando è uscita la notizia, lo dico da alcuni ascoltatori polemici, l'arresto del presidente di Federacciai e non solo, bloccato a Bruxelles per corruzione internazionale, nel senso che per quello che riguarda il presidente Federacciai Antonio Gozzi, che è anche presidente di Duferco, è stato arrestato a Bruxelles dalle autorità belghe in un'indagine sulla corruzione. Secondo l'accusa avrebbe corrotto degli ufficiali della Repubblica Democratica del Congo per ottenere appalti. In una nota il gruppo Duferco esprime stupore per il doppio arresto e, ribadendo la propria fiducia nei due dirigenti Antonio Gozzi e Massimo Croce, afferma che il modo di procedere del giudice istruttore belga non può essere interpretato altrimenti se non come mezzo di pressione inammissibile. Gozzi e Croci sono andati a Bruxelles, continua il gruppo Duferco, proprio per rispondere a un invito del giudice istruttore, che poi invece li ha arrestati. L'economia internazionale, con un petrolio che è ancora in calo, a $45 al barile. Il Giappone mantiene la sua linea espansiva e quindi oggi, al termine di una riunione, la banca centrale giapponese ha deciso che aumenterà la base monetaria, quindi la liquidità, di altri 630 miliardi di euro all'anno, sono 80.000 miliardi di yen. La borsa di Tokyo ha festeggiato e ha chiuso sui massimi degli ultimi 15 anni a 19.400 punti. E poi ancora, mentre c'è un nuovo salvataggio di una banca tedesca, salvata lo scorso weekend dall'associazione delle banche private tedesche, è la tedesca Düsseldorfer Hypobank. È la prima vittima del crollo della bad bank austriaca ETA, è la bad bank della banca austriaca Hypo Alpe, lasciata fallire dal governo austriaco dopo la scoperta di un nuovo buco da 7,6 miliardi. Erano molto esposte verso questa banca alcune banche tedesche, e la prima vittima appunto è la Düsseldorfer Hypo Bank. Francia, Italia e Germania hanno annunciato formalmente l'intenzione di diventare membri fondatori dell'Asian Infrastructure Investment Bank, che può svolgere un ruolo di rilievo nel finanziamento dell'ampio bisogno infrastrutturale dell'Asia. L'iniziativa rischia di irritare gli Stati Uniti, che hanno messo in dubbio la governance, quindi il modo in cui viene gestito il potere all'interno di questo veicolo, che rischia di diventare un rivale della banca mondiale. Washington vedrebbe in questa banca, appunto Asian Infrastructure Investment Bank, uno strumento di diffusione del potere, del soft power, del potere morbido cinese nella regione, e avrà a regime una dotazione di 50 miliardi, investirà in settori strategici come trasporti, energie e telecomunicazioni. Allora, Renzi andrà a visitare Barack Obama il prossimo 17 aprile. L'Italia è un valido alleato della NATO e partner su un'ampia serie di sfide globali, dice oggi la Casa Bianca. Ma invece sul fronte dell'andamento economico, oggi il Premier è tornato, a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico della Polizia, ha detto: i segnali sono univoci, dicono tutti che siamo fuori dalla crisi. Noi abbiamo affrontato una fase emergenziale. Ne siamo fuori? Io credo di sì, per tanti motivi. Perché i segnali univoci, ancorché ancora più timidi di quello che noi vorremmo, vanno in questa direzione. Perché l'Europa finalmente si è resa conto, grazie al lavoro di tante e tanti italiani e non solo italiani, che non si può parlare soltanto di austerity, ma si deve parlare di crescita. Allora, alcune inesattezze, no, sulle assunzioni e la decontribuzione. Non può funzionare che un'azienda, dopo tre, allo scadere quasi del terzo anno, affianchi un dipendente che per la mansione che poi va a chiudere, perché la decontribuzione, bisogna leggerla bene la legge però prima di attaccare sempre comunque il governo, vale solo per quest'anno, non vale più nel 2016, uno, due, ancora su quelli trasformati in tempo indeterminato che poi verranno licenziati fra tre anni. Allora, può essere che in alcuni casi capiti, magari non aspetti neanche tre anni, se uno non funziona lo licenzi dopo un anno, o stabiliamo che non è più giusto licenziare, che ci teniamo tutti, fannulloni, corrotti, fancazzisti e quant'altro. E io non la penso così, e penso che il male di questo paese sia anche la incapacità di licenziare quando è necessario. Detto questo, e soprattutto e anche nella pubblica amministrazione, dove invece la legge non viene applicata, però abbiate pazienza, io sono un imprenditore, ho già un rapporto a tempo determinato o con un mio dipendente o partita IVA o Cocopro, adesso la legge mi dà il vantaggio, la legge di stabilità, non il Jobs Act, non c'entra niente Jobs Act, mi dà il vantaggio di risparmiare fino a 8.000 euro all'anno per tre anni, quindi il rapporto che avevo con il signor I. Rossi, che lavora per me, lo trasformo a tempo indeterminato, va bene? E per tre anni ho questo vantaggio. Alcuni dicono la FIOM su tutti. Dopo 3 anni verrà licenziato. Allora, se io ho bisogno di questo del signor Rossi, dopo 3 anni lo licenzio per fare che cosa? Per riassumerlo come Coco Pro. Quindi gli pago 6 mesi di buona uscita, perché sono 6 mesi, e poi comunque me lo devo riassumere. Oppure lo licenzio per prendere qualcun altro? Perché l'unico motivo per cui non potrebbe licenziare dopo 3 anni è perché improvvisamente è finita la funzione. Uno non va a assumere una persona che deve pagare, poniamo, 25.000 euro lordi l'anno solo perché ne risparmia, invece che costargli 30 ne costa 25. Comunque li tiri fuori questi soldi. Ma qual è l'imprenditore che fa un ragionamento così demente? Altra cosa è dire: fra 3 anni non lo tieni più a tempo indeterminato. Faccio notare che costa un po', costa 6 mesi di buona uscita, chiamiamola così, e devi rimpiegarlo, lo dovrei riassumere da qualche parte. Non mi sembra una gran mossa. Però mi rendo conto che questo sia l'effetto della vulgata che racconta il mercato del lavoro che c'è in questo momento come un paradiso. È un paradiso solo per chi è iscritto ai sindacati ed è assunto a tempo indeterminato. Tutti quelli fuori vivono un inferno: niente maternità, niente rapporti con la banca per i mutui, niente malattie, niente buona uscita, niente di niente. Però sembra che i Coco Pro fino adesso vadano tutti bene, ma dai. E basta. Allora, tornando a Renzi, dice: siamo fuori dalla crisi. Sì, vorrei riprendere anche le parole del nostro Oscar Giannino. Il Premier dovrebbe capire che questo è il momento migliore, con il petrolio ai minimi, con i tassi di interesse ai minimi, con il debito che ci costa pochissimo, con l'euro bassissimo e con l'Europa impegnata a gestire la Grecia, per fare un'altra operazione forte sulle tasse, gli 80 euro, estenderli anche alle altre categorie e ridurre l'IRA per le imprese. Con l'Europa ci parli, gli dici: tanto ci staremo dentro, facciamo crescere il PIL un po' di più. Voglio vedere chi a Bruxelles ha voglia di aprire un fronte di scontro con l'Italia, che è anche virtuosa nel momento in cui non riesce nemmeno a gestire la Grecia. Deve avere più coraggio questo governo, forse meno tweet, meno chiacchiere, ho detto bene, e più coraggio. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. La buona notizia di oggi riguarda il gruppo Salini, che già fu nostro ospite per annunciare il piano di 2.500 assunzioni. Oggi ha fatto un primo bilancio, ha già assunto 3.400 persone nel 2014, di cui 700 in Italia, e oggi Pietro Salini ha detto: dovremmo arrivare a 2.500 assunzioni quest'anno. Questo per quello che riguarda il gruppo Salini in pregiro. E adesso partiamo dal primo tema: economia reale, reale, una delle gambe, lo diciamo sempre, del Made in Italy, le 4A di Marco Fortis: alimentare, automotive, abbigliamento e legno arredo. Ecco, oggi parliamo proprio del settore, perché domani si inaugura la fiera di Milano, MAD Expo, una delle più importanti fiere europee dedicate all'architettura di interni, alle finiture e all'edilizia. Dicevo del legno arredo: 27 miliardi di fatturato all'anno, 13 miliardi esportati, quindi il 50%, 66.000 aziende che vi lavorano in questo paese, 360.000 addetti, ma se si guarda l'indotto, cioè tutti i fornitori e collaboratori, arriviamo a 650.000 persone. Certo, da quando è scoppiata la crisi sono scomparse 14.000 imprese solo nel settore del legno arredo, di cui pensate 5.200 imprese hanno chiuso solo nel settore dei mobili. È un massacro, 62.000 addetti in meno nell'intera filiera. Però è anche il legno arredo l'unico settore dell'edilizia a segnare un dato positivo. Quest'anno è previsto un più 3% nel 2015. Ringrazio allora Giovanni De Ponti, amministratore delegato di MAD Expo, per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera a lei. Come fate ad arrivare a un più 3% nel 2015? Ma il merito va alle imprese, naturalmente. Beh, questo, che e ai loro dipendenti. Che sanno innovare e soprattutto diventare competitive sui mercati internazionali. Questo sostanzialmente. Quindi è anche per voi, che è mai il ritornello di tutti, l'export, no? Assolutamente. E uno strumento potentissimo che aiuta le imprese a esportare è proprio lo strumento fieristico. Domani noi apriamo questa fiera che ha avuto in questi ultimi anni una capacità di attrarre un numero sempre crescente di operatori proprio dell'estero che sono venuti qua e verranno anche qui da domani fino a sabato per comprare il meglio della produzione italiana di finiture per l'edilizia, di materiali, tutti destinati alla costruzione di case, alberghi. E quindi la vera voce di forza, il punto di forza anche per voi è tutto l'export. Tra l'altro, dove sono le aree più interessanti dove va il nostro export in questo momento? Allora, per quanto riguarda il settore edilizio, senz'altro l'Europa, e in particolare abbiamo anche quest'anno delle visite molto attese dal Middle East, dalla Russia. Nonostante l'embargo. Quindi, l'embargo non colpisce questo tipo di materiali. Vero. E quindi quando abbiamo fatto la presentazione a mostra di Made, pensi avevamo 500 operatori, professionisti, architetti, giornalisti. È stata una delle presentazioni più belle che abbiamo fatto in giro per il mondo in questi ultimi mesi. Abbiamo fatto 20 roadshow e ci attendiamo veramente tanti bravi. Nei prossimi giorni. No, mi fa piacere perché c'è un'Italia che corrompe e prende le tangenti e c'è un'Italia che secondo me resta maggioritaria e mi chiedono che strumenti statistici ha lei? Nessuno. Che invece va in giro per il mondo, va a fare lavori seriamente, fa i compiti a casa, non è brava solo in orale ma è brava anche in scritto. Visto che ne parliamo, però il settore della corruzione non è che riguardi il settore del legno arredo, però riguarda ogni volta che tocchiamo, parliamo di opere, soprattutto le grandi. Ma insomma, lei quando va all'estero, quando vede i rapporti con l'estero, veramente noi abbiamo questa macchia, cioè lei si rende conto quando opera in Italia che c'è sempre una tendenza o la percezione che se lei volesse la bustarella, il favore, il regalo, la settimana bianca, la settimana rossa o no? Guardi, io passo circa metà del mio tempo lavorativo in giro per il mondo e quando sono all'estero c'è una percezione dell'Italia che è totalmente diversa da quella che noi abbiamo stando qua. La gente all'estero ci ammira il nostro stile di vita, ammira la qualità dei nostri prodotti, il nostro paesaggio, la cultura e la tradizione del nostro paese. Io, stando all'estero, sono più contento poi di tornare in Italia, perché ricco dell'ammirazione che all'estero generalmente si ha per noi. Siamo più noi che quando stiamo qua. Sì, però è vero, noi saremo anche critici con noi stessi, ma quando lei fa affari, questo mi interessava, sì. Ha la sensazione in Italia che vi sia sempre la possibilità B che passa attraverso la corruzione? Lei parla, ne parliamo di edilizia, che purtroppo è uno dei settori in cui si concentrano da sempre maggiormente, non in tutta l'edilizia, parlo di come settore. Oppure la nostra sensazione, o vede anche atteggiamenti poco corretti all'estero? No, allora, vuol dire, facile parlare della Cina dove noi stiamo investendo molto, no? Dove la tangente è legalizzata praticamente. Però io francamente devo dire direttamente in tutti gli affari che conduciamo noi non mi è mai capitato mai, ma neppure in Italia, essere onesti. Quindi secondo me, adesso io non voglio per forza vedere il bicchiere mezzo pieno, ma la mia esperienza mi dice che è possibile lavorare in che modo onesto, che tutte le imprese anche che per quelle quali noi facciamo servizi si comportano in questo modo, con ciò certamente c'è anche chi si comporta male, chi ruba, questo è evidenza, ma non è che in Italia non sia possibile farlo. Da questo punto di vista noi abbiamo visto che i provvedimenti che il governo ha fatto in questi anni di incentivazione, per esempio per le ristrutturazioni edilizie o per il risparmio energetico, si sono rivelati efficaci. Tra l'altro hanno anche consentito l'emersione, cioè hanno consentito tante cose, a mio parere, positive. Allora, dopo il netto e la pubblicità, vorrei capire invece, tornando al vostro settore, a palla su questo, che benefici avete avuto dal bonus alberghi, perché qui c'è un'agevolazione delle strutture alberghiere che esistono al 1 gennaio 2012. E che cosa vi aspettate? Perché il governo dei soldi li ha stanziati su questo, ancora sul Jobs Act, non c'entra nulla la decontribuzione con il Jobs Act. Lei assumerà o cambierà il contratto nei prossimi mesi? Lo sta già facendo? Sì, allora, noi tanto la prima cosa che stiamo facendo è informare le imprese delle straordinarie opportunità del cambio di paradigma. È un momento storico, sta roba del Job Act che ancora non si è avuto la capacità di leggere, ma che io sono sicuro produrrà degli effetti positivi. Ma lei userà il 2015 per la sua impresa per assumere, visto che poi per 3 anni i contributi li paga lo Stato? Sicuramente sì. Ma saranno più forme di partita IVA, CocoPro, che lei trasforma? No. Io, la sua domanda è se io penso di assumere qualcuno di nuovo a tempo indeterminato. La risposta sì. È sì. No, dico, ma lei trasformerà vecchi contratti in già esistenti in contratti a tempo indeterminato o assumerà anche qualcuno di nuovo che non c'era prima in azienda? No, io farò delle nuove assunzioni. Ah, bene. Faccio trasformazioni, sicuramente nuove assunzioni. Allora, di nuovo in diretta. Dunque, ancora sul Jobs Act. Scusate, io non so veramente più come spiegarlo. Ma se uno risparmia, poniamo 4.000 euro l'anno per 3 anni, fa 12.000 euro di risparmio. Per un salario lordo da 2.000 euro, che gli costa 2.000 euro. Poi, se lo manda via, deve pagare innanzitutto i 6 mesi, quindi 6 per 2 sono 12.000 euro, e poi quella funzione gli riserve, non ci saranno più i CocoPro, deve prendere qualcun altro a tempo indeterminato, quindi manda via una persona per dargli comunque 12.000 euro e quasi annullare di fatto i benefici dei 3 anni per prendere qualcun altro. Mi sembrerebbe un imprenditore demente uno così. Uno manda via le persone perché non gli servono, lavorano male o l'azienda va male. Comunque, da questo punto di vista, come sfrutterete, abbiamo 2 minuti scarsi, De Ponti, gli incentivi che vi ha messo a disposizione il governo per la ristrutturazione degli alberghi, perché se ho ben visto sono 20 milioni per il 2015, 50 per il 2016, dal 2016 al 2019. Innanzitutto li sfrutteremo facendo pressing sul governo affinché faccia i decreti attuativi. Eccolo. Perché finché eccolo i decreti attuativi vengono fatte, questa decisione, eccolo, che noi abbiamo applaudito, straordinariamente intelligente, perché consente di dare respiro non soltanto all'industria che produce i prodotti per ristrutturare gli alberghi, ma soprattutto all'industria turistico-alberghiera, quindi è viva, però se manca l'ultimo miglio, che sono i decreti attuativi, un provvedimento così bello è un vecchio giochetto. Quindi noi faremo pressing affinché questa cosa positiva entri in azione. A quel punto abbiamo già sensibilizzato in questi giorni al MADE, in questi giorni al MADE, dove abbiamo fatto un'iniziativa che si chiama MADE for Contract, in cui mettiamo proprio in collegamento, in ottica proprio business, le grandi catene alberghiere e i piccoli albergatori con i produttori proprio dei prodotti che loro potranno scegliere per riammodernare le proprie strutture alberghiere. Certo. Stiamo, come dire, portando avanti, però manca il decreto attuativo, no, anche perché tutto si gioca sul credito d'imposta del 30% fino a un massimo di 200.000 euro delle spese sostenute dal 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, ripartito in 3 quote annuali di pari importo, utilizzabili solo come compensazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali. Grazie all'amministratore delegato di MADE Expo, Giovanni De Ponti, anche per un po', per il tono un po' allegro, contento, entusiasta del fatto che vuole assumere, del fatto che va a farsi il giro del mondo per trovare nuovi clienti, per promuovere il legno arredo italiano. Lo dico perché dopo la borsa, che metterò un minuto a fare, avremo altri toni, perché ci occupiamo della corruzione e lo facciamo con chi spentrola il coperchio nel 92, scusatemi. Meno 0,91%, ecco perché la confusione. Milano, Parigi meno 0,60%, Francoforte meno 1,5%, Londra più 0,50%. Segnalo il rimbalzo di alcuni petroliferi, Eni, ma un piccolo rimbalzo, più 0,46% e Tenaris. G-Tech invece bene oggi, male Tod's e anche Fiat. Tod's prosegue dopo i conti deludenti, meno 3,70%, gruppo Fiat meno 2%, nonostante i buoni dati sulle matricolazioni di auto europee cresciute a febbraio del 7%. Peggior titolo, Popolare Emilia Romagna, meno 3,71, Pop Milano, meno 3,30, ma anche UbiBanca meno 2,60, e poi fuori dai bancari Finmeccanica, Prismian e Moncler che perdono 2,40, Azimut il 2,30, Buzzi Unicem il 2%. Vi dico che questo governo intende combattere perché non si formi uno stato di polizia, ma ci sia uno stato di pulizia in questo paese. L'Autorità Nazionale Anticorruzione era una sigla, un acronimo. L'abbiamo presa e l'abbiamo messa in campo perché casa per casa, appalto per appalto, sporcizia per sporcizia, si possa intervenire e far pulito. Le pene sulla corruzione devono essere sicuramente aumentate. E non c'è dubbio che l'immagine della prescrizione che viene laddove non si prova un fatto corruttivo è un elemento che nega la dignità allo Stato. Perché uno può dire ti processo e sei innocente, ma pensare che si possa semplicemente arrivare a prescrivere la corruzione è inaccettabile, ed è per questo che stiamo intervenendo. Così il Premier oggi, durante appunto era l'inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Superiore di Polizia. Allora, poi parliamo anche del disegno di legge sulla corruzione, ma insomma qui stiamo tornando sul tema di Incalza e che tocca anche Lupi. Quattro persone arrestate nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Firenze su TAV ed Expo, 51 indagati, di cui quattro politici, le accuse turbativa d'asta e corruzione. In carcere anche appunto Ercole Incalza, ex capo della struttura di governo sulle grandi opere, l'imprenditore Stefano Perotti, ed è proprio Perotti che coinvolge l'attuale ministro Lupi, perché secondo il GIP avrebbe favorito il figlio del ministro e l'avrebbe assunto in una delle società vicine all'imprenditore, ma soprattutto, cosa che secondo me è la cosa più pesante in assoluto dal punto di vista politico, l'avrebbe beneficiato con dei regali tra cui abiti sartoriali e un orologio Rolex da oltre 10.000 euro. Noi siamo il paese, siamo al 90° posto dietro la Turchia e la Spagna nella corruzione mondiale, 60 miliardi di valore economico stimato dalla Corte dei Conti. E allora parliamo con chi, ahimè, questa cosa la conosce molto bene, fu uno dei magistrati di punta ai tempi di Tangentopoli, di Mani Pulite, e fu anche il primo a indagare sulle logge segrete della P2, Gerardo Colombo, attualmente membro del CDA RAI. Buonasera. Buonasera. Grazie anche a un ospite che è tornato da noi. L'ultima volta parlò di Spending Review, lui è il numero uno della Bravo Solution, che è l'azienda italiana leader a livello mondiale, non solo nell'analisi e il controllo della spesa, la Spending Review, che attenzione, sono due parti della stessa medaglia, una spesa fuori controllo porta spesso anche a corruzione, mazzette, tangenti e quant'altro, ma sono anche leader a livello mondiale nel supporto ai processi di gestione e controllo degli appalti privati e soprattutto pubblici. Ha gestito gli acquisti delle Olimpiadi di Londra e sta chiamata adesso dal primo ministro britannico David Cameron per la revisione dei conti pubblici e sta seguendo il progetto Crossrail. Che cos'è? È il più grande progetto infrastrutturale in Europa, vuol dire l'ampliamento e l'ammodernamento del circuito ferroviario londinese. È un circuito che trasporta oltre 200 milioni di persone l'anno. Sono 100 chilometri di ferrovia nuova, 42 chilometri di tunnel sotterranei che collegheranno Londra attraverso le 38 stazioni più 9 stazioni nuove che andranno a costruirsi. Il tutto vale 17 miliardi di euro. E quando uno parla di tunnel, ferrovia, è il richiamo a TAV e quant'altro è immediato. Grazie quindi anche a Ezio Melzi, appunto, amministratore delegato di Bravo Solution. Buonasera. Buonasera a tutti voi, buonasera agli ascoltatori. Dottor Colombo, è chiaro che insomma, lei sì. Ha fatto la storia di Tangentopoli, la storia di Tangentopoli l'avete fatta col pool, però insomma, Mani Pulite nacque a Milano, se lo ricordiamo tutti. Io non so dove prendere questa vicenda, perché da un lato era già tutto previsto, nel senso che sono sempre i meccanismi che vediamo da tempo. Dall'altro fa specie che questa vicenda piombi sul governo nel momento in cui forse si arriverà all'approvazione della legge del DL corruzione, arriverà in aula del Senato giovedì mattina con la sola relazione il disegno di legge sulla corruzione, e poi per il falso in bilancio è prevista la reclusione da 1 a 5 anni per le società non quotate e da 6 mesi a 3 anni per i fatti di lieve entità. La pena sale da 3 a 8 anni per le aziende quotate. Mettiamola così, ma una legge serve in un paese che continua a battere i record di corruzione a livello europeo? Secondo me, beh, una legge serve anche, però io credo che sia necessario fare molto, molto, molto, molto, molto di più. No? Secondo me l'aspetto penale, cioè quello che viene dopo, no? La repressione di ciò che è già stato fatto, alla fine dovrebbe essere veramente considerato l'extrema ratio, l'ultimo argomento, come del resto è sempre stato insegnato all'università, che il diritto penale dovrebbe essere proprio la fine di tutto. Quando non esistono altri mezzi, altri strumenti per affrontare un fenomeno, allora si ricorre al diritto penale. Io credo che sarebbe necessario operare sul piano educativo, sul piano preventivo, sul piano dei controlli, recuperando la responsabilità amministrativa, la responsabilità civile, la responsabilità professionale, la responsabilità disciplinare, tutte queste cose, ma soprattutto cercando di fornire a chi opera i mezzi e gli strumenti idonei, vuol dire adatti, veramente adatti, per evitare che certe cose accadano. Allora, dottor Colombo, adesso noi dobbiamo fermarci per il GR24. Mi chiedono alcuni ascoltatori che come sia, a che punto sia il disegno di legge sulla corruzione. Dalle ultime notizie che abbiamo, arriverà in aula appunto giovedì, come ricordavo, e le dimensioni sul falso in bilancio, la reclusione va da 1 a 5 anni per le società non quotate, ripeto, e da 6 mesi a 3 anni per i fatti di lieve entità. Altri vogliono sapere le percentuali sulla corruzione. Guardate, le raccontiamo praticamente ogni mese, ahimè. Comunque il 97% dei cittadini considera la corruzione un fenomeno molto diffuso. Nel resto d'Europa sono al 70%, in Danimarca il 20%. La classifica ci vede all'ultimo posto, come dicevo prima, perché la Turchia è 81esima, noi siamo 90esimi, la Spagna 54esima, degli Stati Uniti 32esimi. Vorrei capire come si agisce con altri mezzi, lo vorrei capire da dottor Colombo, e vorrei sapere anche quali mezzi, quali strumenti di information technology mette a disposizione Bravo Solution, visto che li ha appena dati al governo britannico per un appalto da 17 miliardi di euro. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, nostro ospite, lo ricordo, l'ex magistrato Gerardo Colombo da un lato, e dall'altro Ezio Melzi, direttore generale di Bravo Solution, che offre sistemi per combattere la corruzione e rendere più trasparenti gli appalti. Allora, Colombo, lei prima ricordava come la pena sia solo l'ultima ratio a cui ricorrere per arginare un fenomeno come quello della corruzione, e dice bisogna agire con altri mezzi. Quali mezzi, mi scusi? Io credo che sarebbe essenziale per il nostro paese giocare moltissimo proprio sull'educazione, perché se esiste una convinzione di carattere generale che vabbè, la corruzione degli altri è sicuramente male, ma con se stessi si può chiudere un occhio, allora credo che sia impossibile. Quando un fenomeno è così diffuso, no? La trasgressione è così, tra virgolette, normale, come succede nel nostro paese, e poi come fai? Però mi scusi, due cose. Ma allora perché si dà tanta importanza alla legge sulla corruzione? Nel senso che non è che manchino le leggi in questo momento, per carità, si possono inasprire le pene, ma se lei mi dice che tanto le pene sono l'estrema ratio, e qui ogni volta che parliamo di appalti io penso all'Aquila, al Mose, all'Expo, cioè qui non c'è un'opera che abbia un, perché poi le piccole magari non le vediamo, ma un'opera che abbia un minimo di dimensione, di valore nazionale, che non si becca la banda Bassotti, perché guardate che sul Mose non c'erano le infiltrazioni per quello che abbiamo visto della criminalità organizzata. Sull'Expo abbiamo rischiato, lì c'era proprio una combutta tra, capito, presidente della regione, presidente del consorzio Venezia Nuova, amministratori, magistrati alle acque, politici, era tutta roba veneziana, lo dico nel massimo rispetto, ma non c'entrava. Sì, prego. Sì. Beh, io non conosco esattamente perché mi occupo mai di altro. Beh, certo. Però posso così notare che il fenomeno della corruzione non riguarda in Italia soltanto gli appalti, non riguarda le grandi cose, le grandi opere e così via, perché c'è una corruzione spicciola che è praticamente quotidiana, ci sono tante persone, tanti funzionari pubblici, per carità, molto corretti, ma ci sono anche quelli che in cambio del caffè gratis tutte le mattine al bar chiedono un occhio per non dare la multa a chi ci passeggia davanti. Però quando voi avete fatto l'indagine che tutti evochiamo sempre, insomma, nel 92, sì, Tangentopoli, sì, Mani Pulite per la precisione, e Tangentopoli fu l'inchiesta più complessiva che riguardò l'intero paese, ma lei questa differenza, ormai la vulgata vuole, voi li beccavate che rubavano per il partito, adesso rubano per se stessi. Lei è d'accordo, sì, su questo o c'è un po' di romanticismo quasi? Allora sicuramente il fenomeno del finanziamento illecito che passava attraverso la corruzione era un fenomeno diffuso, questo è sicuro, diffusissimo, però anche allora, insomma, a chi maneggiava il denaro, a chi maneggiava le tangenti, poi molto molto spesso, magari non sempre, ma molto molto spesso qualche cosa rimaneva attaccato. Lei mi faceva all'inizio la domanda, ma allora a cosa serve questa legge? Ma io credo che abbia il significato di far vedere da che parte stanno le istituzioni, no? Perché noi lo sappiamo, lo vediamo, che non è minacciando delle pene più severe, io tra l'altro sono molto critico nei confronti della pena, secondo me sarebbe necessario, però ne parliamo un'altra volta, riuscire a recuperare, a fare in modo che le persone non commettano più reati e quindi a recuperarle alla collettività, no? Piuttosto che escluderle, lasciamo perdere, ne parliamo un'altra volta, però vediamo che si aumentano le pene e poi però per certi reati è difficile, difficilissimo che le pene siano in primo luogo inflitte, in secondo luogo scontate. Allora si tratta soltanto, no, non soltanto, ma si tratta molto di un annuncio, il quale annuncio però potrebbe essere estremamente importante sotto il profilo proprio della manifestazione delle intenzioni da parte delle istituzioni. Questo è un fenomeno che noi disapproviamo e che vogliamo fronteggiare, ovviamente. Primo, mi scusi un secondo, prego. Perché poi c'è un altro aspetto che è quello degli strumenti investigativi. Se per un reato contro la pubblica amministrazione si possono disporre intercettazioni per reati che arrivano fino a 5 anni, per gli altri no, e quindi l'inasprimento delle pene nel falso in bilancio lì sì, avrebbe una logica sotto questo profilo. Ok, che perché è il profilo delle indagini. Il profilo delle indagini, degli strumenti. Mi dico un'ultima cosa, Gerardo Colombo, ma sì. Voi immaginavate, nel 92 sono passati tanti anni, che cioè, la situazione le sembra peggio adesso o in realtà adesso vuoi, come avvenne un po' nel 92, la crisi economica fa emergere di più anche elementi di corruzione, ma non è cambiato nulla? Oppure c'è stato un avvitamento del paese, perché lei parlava dell'educazione civica, sì, ho capito, ma noi in quegli anni c'era l'Italia che manifestava a vostro favore, c'è stato un modo per spiegare a chi adesso a un'età, sì, una certa età, sì, e poi non è cambiato. Mi dica. No, lo sa, perché secondo me è finita Mani Pulite, perché all'inizio le prove ci portavano a scoprire reati commessi da persone con le quali nessuno si poteva identificare, cioè i vari Forlani, Craxi e via così. Sì, erano persone al vertice, ma chi poteva identificarsi con un deputato, per esempio, no? Poi via via che le indagini sono andate avanti ci hanno portato a scoprire, che ne so, l'ispettore del lavoro che si prendeva la bustarella e non controllava se c'erano gli elmetti nel cantiere, piuttosto che ma il vigile urbano che faceva la spesa gratis e in cambio non controllava la bilancia, centinaia e centinaia, no, di episodi del genere. E allora secondo me gli italiani hanno cominciato a pensare, questi qua cosa vogliono? Non vogliono venire a vedere quello che faccio io, se lo tolgano dalla testa. E siccome le prove si acquisiscono attraverso dichiarazioni o attraverso documenti, le bocche si sono chiuse e i documenti scomparsi. Allora, per questo io credo che esista una certa, ma sicuramente una continuità di atteggiamento culturale da parte di una fetta consistente, non tutti, ma una fetta consistente degli italiani, che con la corruzione convivono alla fine felicemente. Allora, dottor Ezio Melzi, ci faccia capire, voi come fate, cioè che supporto fornite al governo britannico per fare in modo che questi appalti, che valgono 17 miliardi di euro, il progetto Crossrails, ricordo male, che vuol dire rifare tutta la linea ferroviaria attorno a Londra, ecco, che in Gran Bretagna, dove comunque c'è uno spirito leggermente diverso rispetto al nostro sulla corruzione, ma non parta neanche o il minor numero possibile di mazzette e di tangenti. Che cosa sono queste soluzioni informatiche? Prego. Ecco, dunque, intanto mi consente una premessa, no? Il concetto è quello che noi proponiamo e che stiamo facendo per diversi governi in giro per il mondo è dare un contributo a ridurre il fenomeno della corruzione, perché nessuno ha l'ambizione di portarlo a zero. Però c'è un aspetto fondamentale, un approccio molto diverso, vediamo, negli altri paesi, ed è un approccio orientato molto a enfatizzare quelli che sono i processi di controllo. Certamente tutti lavorano sul quadro legislativo, certo. Tutti lavorano sul miglioramento delle leggi, ma poi gli investimenti sono in quegli strumenti che servono per esercitare il controllo. Uno degli strumenti, che per esempio per esercitare il controllo sul tema che riguarda gli appalti pubblici e nello specifico quegli appalti pubblici che riguardano grandi opere, è proprio il fatto che tutti i processi di gara relativi a questi bandi vengano svolti elettronicamente, quindi senza un foglio di carta. Vi faccio alcuni esempi e vi do qualche numero. Il progetto Crossrail è un progetto che, come dicevo prima, prevede investimenti vicino a 17 miliardi, dove tutti i bandi di gara pubblici che sono in corso e che saranno realizzati fino alla fine non prevedono l'utilizzo di un unico foglio di carta. Vi parlo anche di gare che possono avere fino a 1.000-2.000 allegati, tutti in formato elettronico, e voi capite che con un processo come questo, con tecnologie come queste, intanto commettere reati è molto più complesso. Ma perché, mi scusi, mi sfugge, no? perché la carta dovrebbe agevolare il reato, questo non lo capisco. Per il semplice motivo che la carta può essere manomessa, può essere letta, può essere vista in anticipo, può essere sostituita, possono essere commessi molti. Quando lei fa il bando di gara, dice, uno può poi modificarlo ex post, diciamo? Potrebbe essere, no? Qualcuno ha parlato addirittura, ho sentito una volta un giornalista fare addirittura un riferimento a delle doppie buste che possono essere sostituite in certi momenti della gara. E poi soprattutto l'altro concetto fondamentale, che se io ho tutte le informazioni di gara su una tecnologia, qualunque autorità, e mi riferisco nello specifico a autorità come l'autorità nazionale anticorruzione, certo. Per esempio, un minuto dopo che la gara si è conclusa, questo procedimento di gara, che si trasforma in un file elettronico, può essere mandato immediatamente all'autorità di vigilanza, che un minuto dopo, due minuti dopo che la gara si è conclusa, ha nel suo computer, sul suo schermo, tutto ciò che è accaduto in quella gara, chi ha fatto che cosa, quali sono le informazioni, quali sono le interazioni avvenute tra la stazione appaltante e i fornitori, qualunque cosa è tracciata, qualunque cosa è ricostruibile. Allora, cosa voglio dire con questo? È il messaggio che voglio trasmettere soprattutto alle autorità di vigilanza. Oggi esistono le tecnologie per esercitare i controlli. Quindi è certamente giusto migliorare le leggi, ma a mio avviso, se posso dare un suggerimento o un consiglio a coloro che ci governano, io investirei molto negli strumenti di controllo, perché attraverso il controllo pressante che si induce chi commette corruzioni e gli si complica molto la vita, no? Ma esistono degli scostamenti che sviluppano poi un alert, un allarme nei sistemi? Cioè, perché noi sappiamo che da noi la corruzione si fa molto con le varianti in corso d'opera, e quindi un appalto che parte da 1 miliardo, poniamo, poi inizia a diventare 1,3 miliardi, 2 miliardi, questo, 2,5 miliardi. Possono essere giustificate perché hai avuto degli intoppi, ma altre volte dietro c'è solo la mazzetta. No, questo questo è vero, però questo la tecnologia può aiutare poco. La tecnologia può aiutare nell'identificazione di un trend che riguarda quella gara, nell'identificazione del fatto che stanno aumentando i costi, può aiutare a identificare alcuni passi che sono intervenuti anche dopo il processo di gara, ma il fatto che si cerchi di lucrare sulle varianti è dovuto al fatto che le gare non sono state, tutta la parte istruttoria della sì. gara, la parte di preparazione della gara non è stata condotta come si doveva, no? Comunque lei dice la tracciabilità di tutti i processi, di tutte le fasi, il fatto che sia online, che arrivi subito all'autorità di vigilanza e insomma questo già non dico che è un deterrente, mettiamola così, perché insomma tu qualunque passaggio lo vedi. Una cosa volevo chiedere per finire a Gerardo Colombo. Sì. Intanto cosa ne pensa se nella sua esperienza di magistrato si è investito troppo poco, forse anche i magistrati potranno fare qualche battaglia in più sugli investimenti in tecnologia e qualche battaglia in meno di carattere politico, ma questa è una mia valutazione. Se io credo che ne abbiamo fatto che sia stata molto attenta la categoria sugli investimenti in tecnologia, così come è stata molto attenta, adesso io non sono più in magistratura ormai da 8 anni, però è stata molto attenta anche sulla richiesta di copertura degli organici, non soltanto dei magistrati, che sono comunque dei cancellieri, e infatti del personale amministrativo e così via. Mi sembra che qualche cosina adesso si stia facendo, ma sarebbe necessaria anche una preparazione. Ecco, avere un suo commento su quanto raccontava adesso, perché poi le cose semplici da noi sono sempre quelle più difficili, no? Uno vince gli appalti sulla spending review a Londra e noi siamo ancora qui a mettere in finanziaria 7,5 miliardi di spending review, ma Cottarelli è scomparso e non c'è qualcuno che abbia preso il posto suo. E un giudizio su quello, ma anche se alla fine la legge, abbiamo spiegato che sì, serve, è utile per gli strumenti investigativi in base anche alla pena, però non può essere, è un'estrema ratio. I controlli che ricordava Melzi, per carità, aiutano molto l'autorità di vigilanza, però certo che se tutti iniziano a mettersi d'accordo il tasso di corruzione resta comunque elevato. Non c'è anche una piccola regola da cambiare in questo paese quando parliamo di appalti? Sulla permanenza, lo dicevamo ieri, dei gran commi, dei dirigenti della pubblica amministrazione in un ufficio, cioè come fa uno come Incalza a stare legislature? Sì, certo, ma la legge Severino prevede la rotazione. Poi anche qui un conto è che ci sia scritto qualcosa in una norma di legge, un conto poi è che questa norma sia applicata anche. Sì, certo. E il codice penale lo dice molto chiaramente che la corruzione è un reato, no? E tuttavia mi sembra che sia molto molto frequente la sua violazione. Non basta quello, non basta la legge, è necessario che poi la legge sia applicata, e lì gioca moltissimo la cultura, il modo di intendere, il modo di pensare. E allora per quello, no? Ma lei sarebbe favorevole a una rotazione obbligatoria? So, alcuni dicono ma se poi il dirigente, il capo dipartimento è bravo, ho capito, ma insomma fai 2 legislature, fai 10 anni massimo, e poi anche 5 ne farei fare. Sì. Oppure è un metodo troppo brutale? E secondo me bisognerebbe sempre, tutte le volte in cui il problema del rispetto della legge è un problema grosso, succede che si cerca di risolvere questo problema attraverso la modifica della legge. Questo può andare bene, benissimo, soltanto che crea anche poi degli scompensi, no? Perché ci può essere il dirigente bravissimo e correttissimo che è estremamente competente e lo si perde, però si sacrifica questo per fare in modo che poi ce ne siano magari altri 10 che invece non sono bravi perché sono stati messi lì per altri motivi, non sono corretti, eccetera, eccetera, eccetera, no? Allora, per quello che io dico, cerchiamo di giocare sul cambiamento della prospettiva, del modo di vedere le regole da parte della cittadinanza. Richiede un investimento immenso, secondo me, però io credo che sia l'unica strada che consenta a questo paese di uscire veramente. Ora, i metodi di cui parlava il dottor Melzi sono secondo me molto importanti, perché le procedure, l'esistenza di una procedura è quello che consente poi di verificare e di e di verificare anche abbastanza rapidamente se ci si è discostati oppure no. E quando si ricorre a un sistema informatico e quindi le carte non possono essere modificate cancellate, eccetera. Ma capita così spesso che queste carte vengono modificate, cancellate, sì? Ma guardi, io mi ricordo che quando ai tempi di Mani Pulite ci succedeva di batterci anche in buste con le offerte aperte con la pentola di vapore. Ma dai, tipo a scuola. Sì, certo. Mancava solo la scrittura col limone e col succo di limone c'eravamo. D'altra parte, mi scusi, ma credo che sia abbastanza ricorrente la voce, che non penso sia soltanto una voce, che ai tempi si usava congelare le palline per... Ah, beh, certo. Le palline fredde per l'estrazione, è vero. Pure quello. Allora, grazie. Sì, non è che sia molto allegro, ma comunque, grazie a Ezio Melzi, direttore generale di Bravo Solution. Grazie a Gerardo Colombo, appunto, ex magistrato di Mani Pulite, attualmente membro del CDA della Rai. Grazie a tutti e due. Buonasera a lei. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi, sperando di tornare a parlare di economia reale e non di economia illegale. Radio 24. La passione si sente.